insomma, molto forte, però so che siamo stati a un centimetro dalla sconfitta, ma anche a un centimetro dalla vittoria. Prima di Elisa dal centro, insomma, poi si era fatto una super forza. Perché non è andato? Un po' in più. Cioè, abbiamo subito una difesa loro che giocavamo chiusi in porta, che sapevamo perché avevamo visto in alcuni video, avevamo preparato, ma poi insomma la partita è sempre diversa dall'allenamento, le variabili che influiscono sono sempre tante e quindi loro in più insomma la cosa che cioè, siamo andati peggio. Poi devo dire che noi che abbiamo la luce c'è stata già una partita di grande, una squadra fortissima che non sapeva da troppo anni. Mi spiace un po', però insomma, non siamo morti, abbiamo la dimostrazione penso di vitalità, di una squadra che esiste, no? Non è una squadra che ha animo, corpo, voglia, rabbia, ora c'è la solita roulette di differenze volte. Dopo l'esperienza di Melbourne, che però è stata penalizzante per un gol, che si capiva, non si capiva il regolamento, è giusto, è sbagliato. Qua siamo di casino di regolamento, non lo so perché loro si dicono leggi di regolamento, no, l'abbiamo letto, sono andati a spiegare, poi a Melbourne hanno cambiato le carte e siamo stati in questo livello noi. Qui spero insomma che dopo l'esperienza di Melbourne ci diranno proprio la cosa reale, onestamente io non so, nelle manifestazioni, in qualche conta la dipende sulla terza, sulla quarta, anche quella globale, sul gol facile. Sicuramente questo discorso a luce non pare che l'attacco è molto più pesante di noi, seconda quella globale può essere decisiva. Se invece un discorso legato a solo alle partite, non so, alla Grecia, alle squadre delle forti, è un discorso di quella regione. Non so cosa dirvi perché non lo so. Pronto di quello che è accaduto. Non ci penso. E vediamo cosa dobbiamo spiegare. Senti, nel secondo tempo quando potevamo andare su 5, 6 a 2 invece siamo andati su 4 a 1. Questo lo dico io, teorico, poi la pratica è quella che la Russia faceva l'altra partita. Però è l'uomo in meno dove abbiamo peccato, dove siamo stati in attacco un po' paralizzati, dove hanno lavorato molto con la Casanova, noi ci siamo proprio, cerchiamo sempre lei, scordandoci che possiamo andare in porta, non c'è solo lei. Non lo so, sono sempre contento di essere dispiaciuto, alla fine l'abbiamo ripresa, possiamo vincerla così, si chiede mezzo pieno, mezzo vuoto, diciamo mezzo pieno. Allora, grazie.